Nata chiaramente dall'urgenza che stiamo sentendo e vivendo tutte e tutti in questo momento, nel senso che è un tipo di urgenza dove se da un lato non sai davvero cosa fare e come affrontarla, dall'altro rifletti anche un po' sugli strumenti che hai a tua disposizione. Ci è sembrato molto importante in un modo anche molto improvvisato, perché il sistema che abbiamo costruito l'abbiamo veramente costruito in 5 ore, garantire una sorta di nastrone in streaming costante che mandasse in lancio documentari e film del nostro catalogo, con la chiara funzione di essere anch'esso un veicolo di diffusione dal basso delle opere, ben consapevoli che in questa situazione particolare in cui ci troviamo, noi stessi siamo i primi a non avere una più pallida idea né di come affrontarla né di che opinione farsi specificatamente. E in questi casi non solo, secondo me, è meglio, se non riesci ad avere il quadro chiaro della situazione, è meglio rimanere su una posizione di cautela, ma è anche, secondo me, meglio concentrarsi sul fare e condividere con gli altri quello che puoi fare, quello che sai fare. Noi sappiamo fare questo. È anche un modo per rompere, seppur virtualmente, l'isolamento in cui siamo costretti per, insomma, forze di natura maggiore. Sì, sì, noi tra l'altro ci stiamo trovando purtroppo anche in una situazione specifica, nel senso che, per chi non lo sapesse, noi siamo anche in tournée con un nostro film che è Milky Way, che ovviamente è stato letteralmente travolto dagli eventi anche quello, e quindi noi in realtà siamo i primi che non sappiamo cosa dire, cosa pensare, non sappiamo se sia il caso di consigliare alle persone di venire a vedere questo film in sala piuttosto che di non venire a vedercelo e di rimanere in casa. Chiaro che adesso, con le ultimissime notizie di queste 48 ore, non ci saranno più proiezioni in nessun posto, in nessuna città in Italia, però prima ancora delle disposizioni siamo noi stessi i primi che non riescono a leggere completamente in maniera chiara la situazione, e quindi ci è sembrato utile rispondere all'urgenza con un gesto di questo tipo, che ovviamente è un gesto simbolico, nel senso che non solo non risolve i problemi, ma cerca di dare il suo contributo più che altro alla percezione di cos'è per noi in questo momento il concetto di comunità, che è un concetto su cui noi negli anni abbiamo sempre lavorato, anche in maniera assolutamente legata e stretta con quello che è il nostro modo di produrre film e di distribuirli, e questo è l'unico contributo fattibile che noi ci sentiamo di mettere in campo in questo momento. Ci sono film del vostro catalogo, ne sono usciti i primi 12, diciamo, in questi 3 giorni, però l'iniziativa andrà avanti. L'iniziativa andrà avanti, dici bene, andrà avanti finché riterremo opportuno farla andare avanti, quindi ovviamente è tutto in costante cambiamento, in costante programmazione. La nostra idea è quella di riuscire a proporre una lista di 8, 10, 12 titoli ogni 3-4 giorni. Capite bene che anche per noi è uno sforzo enorme quello che stiamo facendo, perché non essendo strumenti rodati, quelli che abbiamo messo in piedi, è tutto veramente fatto quasi a livello manuale, per cui, nel senso, è faticoso anche per noi in questo momento riuscire a garantirlo, ma faremo lo sforzo fino in fondo per poterlo fare, anche perché la cosa molto bella è che ieri abbiamo poi deciso di lanciare una specie di chiamata nazionale rivolta a tutte le attrici e gli autori indipendenti. Non solo stanno arrivando tante risposte, ma anche tanti autori del catalogo ci hanno subito scritto dicendo: ci siamo a disposizione anche noi con i nostri film e con il nostro film per questa programmazione straordinaria. Quindi la risposta che c'è in questo momento anche da tutta quella enorme vastità di piccole realtà indipendenti è molto importante per noi e ci dà la dimensione del fatto che nel nostro piccolo abbiamo fatto la scelta giusta. Il vostro è un gesto molto generoso, quello di mettere in chiaro questi lavori, però ovviamente c'è sempre la possibilità di fare delle donazioni. Sì, è stato un po' l'equilibrio che noi abbiamo trovato in queste, abbiamo fatto un paio di assemblee d'emergenza, diciamo, prima di lanciare tutto questo, e quello che ci siamo detti è partito proprio da lì, nel senso, noi siamo consapevoli di essere già da 7 anni una piattaforma online e on demand. L'idea che il nostro messaggio rimanesse esclusivamente, visto che siete a casa, compratevi i nostri film, non ci piaceva per nulla, perché in questo momento non è sicuramente la strada migliore da perseguire, anche perché l'abbiamo visto che, paragonandolo al resto di quello che sta succedendo, bloccano la circolazione delle persone ma non la circolazione delle merci, quindi il sistema capitalista sta cercando comunque di proseguire nelle sue direzioni e nelle sue attività. Chiaramente noi non siamo minimamente coinvolti all'interno di quel processo, non lo siamo mai stati, non lo saremo oggi, e quindi l'idea nostra era proprio quella di ribadire qualcosa che bypassasse questo discorso. Il migliore modo che abbiamo trovato, poi magari ce ne sono tanti altri, per farlo è stato proprio questo, mettere comunque a disposizione di tutte e tutti un canale continuo di programmazione, che è H24, e lasciare la possibilità, a prescindere da questa cosa, alle persone di fare una donazione o meno. Anche perché è quasi banale dirlo, però il concetto è proprio questo. Noi in questo momento, come tante altre realtà indipendenti del cinema e della cultura, siamo letteralmente in ginocchio. Dopodiché lo sono tutti quanti in questo momento, o comunque lo sono tutte le lavoratrici e lavoratori, tutte le precarie e precari, come siamo noi anche, e questo secondo noi era l'unico vero modo sano e corretto e giusto e comunitario di affrontare questa situazione.